Zolt. Fulminati in azienda. Ciao direttore, ti ho chiesto questo incontro perché la nostra azienda deve fare un grande salto, deve diventare un'azienda ecologica. Giusto, brava, sono d'accordo, l'ecologia paga. Ho letto su Vanity Business che oggi è molto cool quando l'azienda è ecosostenibile in qualsiasi azione, in qualsiasi piccolissimo gesto. Come tu sai, Marta, io ogni volta che c'è da risparmiare sono d'accordo. E allora investiamo sulle energie alternative. L'idea è quella di mettere un bel mulino a vento sulla terrazza della nostra sede generale. Sì, ho capito, però non siamo mica in Olanda. Comunque, mi sembra una buona idea. Oggi il cliente, quando sente la parola eco, compra, e quindi facciamo un bel progetto eco transformation e comunichiamolo a tutti che noi siamo un'azienda che ritorna alla natura. Guarda, io sono già membro dell'Associazione Nazionale Dirigenti Orto in Affitto. Ci riuniamo una volta al mese per condividere le nostre best practice su come coltivare il radicchio nel giardino. E allora mi sono anche comprata il grembiulino griffata di Pucci come Michelle Obama. Adesso è l'ora di mettere le mani nell'orto. Senti Michelle, ascoltami, allora facciamo così: presentami un bel progetto biodegradabile e già che ci siamo, facciamo l'orto aziendale. Mettiamoli tutti a zappare, me li vedo già due o tre quadri. Braccia rubate all'agricoltura! Cari colleghi, siamo qui per presentare il progetto Eco Transformation, che renderà la nostra azienda ecosostenibile in ogni piccola, minimissima azione. Dopo le campagne, non stampare questa mail, non aprire la finestra ad agosto e spegni la luce del corridoio perché questo ufficio non è un albergo. Ecco il nuovo progetto. La nostra sede diventerà un edificio a impatto zero. Ma perché sta sto boschetto sul tetto? Non ho capito. Ecco, proprio lì, accanto ai pannelli solari, alla vasca per la raccolta dell'acqua piovana, sorgerà l'orto aziendale e tu ne sarai il responsabile, Centri, il fattore. Ma che è sto orto aziendale? Ma che è sta cosa del fattore? Centri, è un'idea straordinaria, una mia idea, infatti. Facciamo la nostra mensa a chilometri zero, facciamo l'autoproduction. Ma di che, scusa, asparagi, cicorietta, lattughino? Ma no? Sì, ma allora non sai niente, non sei informato. Anche alla Casa Bianca fanno tutto nel loro giardino. Noi mangeremo quello che produrremo. Marta, indici subito una conferenza stampa e vedrai che ritorno di immagine e di fatturato. Il titolo: The Green Power. Beh, mi tocca innaffiare la cicorietta. Volevi l'azienda sostenibile, Pecco? Eccola qua. Sì, ma sei un odore, ma cosa sei, letame? Si dice fertilizzante, pure il letame ha cambiato nome nell'azienda etica, capito? Certo che dopo 10 anni in st'azienda mai che avessi pensato di far sto ruolo. Ah, Pecco, te fa curriculum e chissà Dio che ti ritorna più utile aver dato da mangiare maiali che aver fatto 10 piani di marketing. In questa area dell'azienda abbiamo ricreato l'orto originale DOP per ritrovare le nostre radici culturali e l'equilibrio dell'ecosistema. Ma Pecco, Pecco, non te fa riconoscere, c'è il giro dei giornalisti. Ecco, ecco, è lui il nostro responsabile dell'orto della porcilaia Giorno. Aziendale. Sì. Centri, vogliamo offrire un ovetto fresco ai giornalisti? Come no, o preferite a Coq o a Zabaglione? A Pecco, va a vedere se Giacinta ha fatto l'uovo stamattina. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.